supiera. Buonasera cari amici della Tela Sonora. Gabriella T, sorrido perché oggi è la prima puntata dell'anno nuovo, quindi tanti auguri e che sia un anno splendido per tutti voi. Non sto a dirvi le mie vacanze come si sono svolte, neanche quelle del nostro amico Gentian con me in regia, che addirittura è stato accidentato, quindi diciamo che non l'abbiamo veramente cominciato benissimo, ma contiamo così di migliorare con il tempo. Questa sera la quarta pagina di Anna Maria Farabi, che incomincio subito nel momento che abbiamo un po' di ritardo a leggervi quindi come introduzione, e quindi ascolterete la mia voce, ma sarà anche la voce, diciamo, di Vittoria Ravagli, l'ospite di questa serata del Filo Rosso. Vittoria poi la chiameremo, quindi manderemo un po' di musica come al solito per poi avere la diretta, e sarà lei poi in prima persona a raccontarvi le belle cose che fa. Perugia, 6 dicembre 2008, una stanza di ospedale. Ogni tanto mi fermo, respiro profondamente, riprendo energia, come ora, qui in una stanza enorme di un qualunque ospedale. Decine di persone inquiete, sedute, o giù e su, camminando il pavimento lucido. Si incrociano nello sguardo, o dentro un chiacchiericcio nervoso, impulsivo, vuoto, foneticamente ondulatorio. Aspettando di essere chiamate per la visita, per un periodico controllo, per la terapia ciclica, per il ricovero, conoscono a memoria il numero che sostituisce il proprio nome e cognome, la propria traccia di vita, la propria malattia. Dentro questo branco, anch'io. Fermata. Respirando. Uno dei modi di acquisire energia è pensare ad una pianta. Ogni pianta ha una qualità, una identità, un'offerta. A seconda del bisogno, mi concentro in un filo d'erba, per la sua leggerissima precisione e l'eleganza sottile, in una canna da bambù, per la straordinaria verde capacità elastica di flettersi, di farsi arco, leva e resistenza, in una quercia, per tutte le proprietà della quercia. Sentendo in me la quercia, ecco, mi viene qui, dentro le costole, la forza, il volto interiore di Vittoria. Ricordo. Ero a Sasso Marconi, accanto al fusto della quercia, parlando della mia tela di Penelope. Davanti a lei, al centro di un cerchio di persone, una circonferenza di ascolto, un'ostia di poesia. E qui viene avanti la sua presenza. Estraggo la sua lettera, accorata nel rigore, nella passione, nella sorellanza, nella testimonianza. Nel senso di responsabilità, di eredità, di amore, che sfonda la propria individualità e progetta per gli altri. Leggo a me stessa ed oltre me stessa le sue parole a voce alta. Carissima Anna, so bene che tu senti come me questo crescente disagio che ci fa prigioniere nelle vostre vite, in difesa, guardinghe, a galleggiare dentro bolle trasparenti che rendono stentata la comunicazione. Succede anche a noi che nella parola riponiamo amore e rispetto, ma è forse l'uso che se ne vede fare che ci disgusta. Gli intellettuali, quelli che scrivono di sé per sé, tra loro purtroppo non mancano donne, si stanno riposizionando, sono abbastanza silenziosi o si trovano in giri sempre più chiusi. Studiano come poter continuare il proprio inutile esercizio autoreferenziale, senza offendere troppo il potere. Gli altri sembrano mutoliti. È tale tanto quello di negativo che passa, e così assente un senso morale, civico, un coraggio di fare e di dire al di fuori di bandierine e slogan, nei fatti concreti e giornalieri della vita, che ci si trova attoniti e muti. Mi trovo a fare una selezione durissima nei contatti che mantengo, seguo il mio sentire, le priorità che da anni mi sono data, regole. Provi o no che siano i poeti, le scrittrici, la scelta è sulla persona, sul suo modo di vivere, di essere, più che di scrivere e di apparire. molte delle tante amiche come te più giovani, con le quali momento più insicure che mai. C'è chi cambia o perde il lavoro, chi la casa, chi il compagno. Ansiose, oberate di lavori, spesso con genitori o parenti da seguire e da accudire. Un mondo difficile che credo ormai solo le donne possano cambiare, prendendo in mano le cose, modificandole, rivedendo le regole, facendo scelte di non violenza, di parità, mettendo al centro i bambini, la loro vita, la qualità di tutte le vite. Ma per farlo dovranno sentire la gioia di essere donne, consapevoli di portare valori diversi, necessari. Superare, copiandolo l'uomo. Partiamo da noi, dalle nostre piccole vite, dai luoghi che frequentiamo, dalle scelte che facciamo. Si cambiano le cose a partire dal basso. Sappiamo gli affari sporchi, piccoli e grandi crimini, violenze, soprusi. Siamo attorniati da notizie spesso tremende. Questo ci opprime, tende a renderci opache. Il coraggio, che può e deve essere anche individuale, di denunciare, di dire, di chiedere, di far conoscere, di volere risposte, ora in Italia sembra assente. In politica, ma anche nella vita di ogni giorno, nelle scuole, sui giornali, negli scritti, più ancora nei comportamenti. Essere coraggiosi, normalmente coraggiosi, chiari, vuol dire oggi essere isolati, estremisti o pazzi. Niente di nuovo, dirai, ma è ora peggio, Anna, è disperante. Sembra di veder svolgersi un copione ineludibile, scritto da altri, accettato supinamente. Noi, come indiane nelle riserve della parola, cerchiamo che così non sia. Restiamo consapevoli del poco che la vita ci chiede. Continuare a lavorare con le donne più giovani, cercare di dare loro forza e speranza, seguirle passo passo, restare collegate, sostenersi a vicenda, è un compito, una strada da seguire sino alla fine. Per le anziane come me, per le donne come te, un'impresa che occupa tutti i nostri giorni. Ti abbraccio, Anna, sorella più giovane, ma sorella maggiore. Vittoria. Ecco, cari amici, vi ho letto lo scambio epistolare tra Anna e Vittoria. Adesso, prima di continuare, prego Gentia magari di mandare un po' di musica, perché così io posso contattare Vittoria per la diretta. Eccoci, cari amici, sono stata rapidissima perché vogliamo approfittare di questa serata con Vittorio. Vittorio, mi senti? Bene, Benissimo, grazie. allora senti, io ho appena letto lo scambio epistolare che hai avuto con Anna. Non ho raccontato nulla di te perché oggi abbiamo dovuto iniziare un po' in ritardo e quindi ci scusiamo con te e anche con i nostri radioascoltatori, ma oggi è la prima. Dopo le vacanze, quindi ci sono sempre delle sorprese. Senti, allora, intanto dallo scambio così epistolare, risulta che tu alla fine concludi la tua lettera abbracciando Anna e chiamandola sorella maggiore. Magari vuoi intanto rivelare perché? Sì, perché Anna è per me un punto di riferimento costante, un punto di equilibrio e la penso per questo come una sorella maggiore. Ascoltare e leggere i suoi scritti mi ha permesso di imparare a conoscermi meglio, a capire, a dare un senso alle cose che faccio e anche ad avere un maggior, diciamo pure, equilibrio, ecco, a rispettare le pause della vita, a prendere le distanze dalle emozioni forti. Lei appunto è un mio importantissimo riferimento. Direi che questo è il discorso fondamentale. Lei ha tutto un suo modo di vedere la vita che è molto simile a quello di tante di noi, ma ha un linguaggio per cui quello che sente viene espresso talmente bene che ci sembra di capire finalmente quello che abbiamo dentro, ascoltando lei. Per esempio, parlando della tela di Penelope di cui Anna ha accennato nella sua lettera, lei inizia parlando del filo che è un po' il filo con cui tessiamo le nostre relazioni, non solo il filo della tessitura, e dice: lavoro il filo per la necessità di abitare il mio corpo in un punto interiore da cui tessere un ordine preciso. E questo è appunto il discorso. Tessere dei rapporti, scrivere delle cose, fare delle cose e creare delle relazioni importanti tra di noi. Lei lo fa in modo particolarmente bello e maturo e aiuta tutte noi, anche più vecchie di lei, a farlo nel migliore dei modi possibile per noi. Direi che, beh, anche tu sai che il titolo del nostro programma è La tela sonora e diciamo che è nato un po' in simbiosi perché giustamente dopo aver conosciuto Anna, aver letto i suoi libri, aver presentato anche i suoi libri qua a Bruxelles al Club del Libro, il discorso della tela è stato un po' un richiamo che abbiamo sentito tutti qua in radio. E abbiamo su questo un po' fondato il senso anche di questo programma, che è un programma molto particolare, perché noi, fin dei conti, mettiamo in comunicazione Bruxelles, il centro dell'Europa, con scrittori e poeti italiani fondamentalmente, ma anche di altri paesi dell'Europa. E siamo un po', come dire, il centro, il cosiddetto ragnetto che tessendo ingrandisce sempre di più questa tela, che poi è una tela molto elastica e quindi raccoglie onde e poi che emette poi a sua volta on the air, come noi diciamo, no? Nell'aria, grazie alla radio. E quindi è lo scopo che ci siamo così fissati fin dall'inizio, un po' come la base, la regola fondamentale. Ma senti, continuando invece a parlare di te, da dove io ti ho chiamato e ho fatto un numero, dove vivi e raccontaci anche un pochino chi sei, cioè la tua attività, il tuo tessere, il tuo fare. Sì. Dunque, io ho 66 anni e sono felicemente in pensione. Dico così perché in effetti soltanto quando si smette di essere produttivi si riesce, almeno in particolare per le donne, ad avere il tempo per fare completamente quello che si desidera fare. Io da molti anni qui a Sassomarconi, dove vivo, ho una casa dove vivo in un'aia su una collina. Io ho davanti a me una grandissima valle profonda, sembra di essere in India, invece sono a pochi chilometri da Bologna. Da molti anni organizzo delle iniziative, in particolare rivolte alle donne, ma naturalmente non solo, e ho alcuni interessi forti in questi ultimi anni che continuo ad approfondire insieme ad altre donne, perché un po' rispondono ad esigenze di questo periodo, di questo tempo così difficile. Mi interessa per esempio moltissimo la figura di Maria Gimbutas, che è un'archeologa lituana che ha insegnato anche in America, dove ha creato poi questa disciplina nuova, l'archeomitologia, per riuscire a leggere in modo completo i segni del tempo, i reperti, attraverso la conoscenza di più discipline. Su Maria Gimbutas abbiamo fatto tante iniziative. Il suo libro più conosciuto, che è Il linguaggio della Dea, che è stato appena ristampato dopo tanti anni in cui nessuno riusciva a trovarlo, praticamente lei mette insieme una teoria in base alla quale, sulla base di questi reperti tantissimi ritrovati da lei stessa, perché lei appunto è un'archeologa nel Neolitico, in particolare in Europa e nell'Asia Minore, attraverso questi reperti lei parla di una testimonia, una civiltà matrilineare antichissima di popoli antico europei che avevano il culto della grande madre, della madre terra, e in queste civiltà di cui lei ha trovato i segni numerosissimi non c'erano segni di guerre, di violenze, le civiltà erano guidate da uomini e donne in modo paritario. E quindi questo ci porta poi a sognare non tanto i tempi passati, ma proprio a sperare di ricreare una società più giusta e equamente rappresentata e rispettosa delle differenze, della natura prima di tutto, e un tipo di società in cui ci sia un mondo pacifico, insomma. E questo è molto bello e importante, anche perché poi, come tante altre donne, sento che la nostra vita è strettamente legata ai cicli della terra, quindi il discorso della nascita, della crescita, uh-huh, della trasformazione, della morte. Uh-huh. Per cui la Gimbutas è davvero un riferimento importante. E abbiamo fatto moltissimi incontri con poetesse, tra cui appunto Anna e tante altre, e anche con artiste che hanno esposto dei quadri meravigliosi che si ispirano alla madre terra, e anche con studiosi, filosofi, archeologhe. E alla fine di questo 8 marzo del 2008 abbiamo fatto insieme a dei laboratori di Creta, letture eccetera, abbiamo fatto dato il nome a una piazzetta sotto degli alberi stupendi con delle grandi panchine di pietra rotonde, abbiamo dato il nome Maria Gimbutas a questa, mm-hmm, piazza, e c'è stato possibile farlo perché un'amica nostra e l'assessore pari opportunità Sandra Federici, ma purtroppo a fine mandato perché ha 3 figli piccoli, quindi non ce la fa più. E così. Bene. Ecco, poi potrei dirti tante cose, ma non so quanto tempo ho. Ma guarda, abbiamo tutta la serata. Quindi ah, va bene, niente. Allora, proprio sul discorso della Dea, delle tantissime poesie di donne viventi e anche poetesse che non ci sono più, uh-huh, ti leggo qualche riga di una tra le nostre amiche più care, Aldina De Stefano, che dice: forse dimora di una Dea ogni luogo sospeso dove tutto si rinnova e tutto è come un tempo. Ed è molto bello perché dà proprio questo senso della natura. Senti. E anche di questa Dea Madre, così come noi ce l'immaginiamo, in questi posti particolari dove c'è l'acqua, mm-hmm, che poi sono diventati così, ai quali si sono dati poi nomi diversi col passare degli anni, mm-hmm, ma che vengono da un culto antichissimo. Un'altra donna molto molto interessante su cui abbiamo fatto, uh-huh, una grande iniziativa che poi è stata ripetuta da altre amiche a Bologna, è questa Amber Past, uh-huh, non so se l'hai mai sentita nominare. No, infatti è una ero donna curiosa. Che vive nel Messico, uh-huh, e nel Chiapas, e là ha preso la nazionalità, lei è originaria degli Stati Uniti, e ha fondato una cooperativa dei Taller Legnateros. Sì. Lei è una poetessa e ha raccolto in 25 anni di lavoro canti, fatture di donne maya, giovani e vecchie, e ha fatto questo libro con questa cooperativa, fatto a mano, con carta riciclata, con carta ricavata dai rifiuti vegetali del bosco. Tra l'altro ci ha mandato anche un CD in cui si vede il lavoro, come viene fatto manualmente. E hanno lavorato in 150 persone che vengono da tutte le varie strati sociali, quindi e anche grandi artisti loro, e loro scrivono di questo libro: abbiamo fatto quest'opera come facciamo i nostri figli, con la forza della nostra carne e gli uccelli del nostro cuore. È venuto fuori un librone meraviglioso che ha come copertina una specie di una faccia di una dea, che è la dea Maya della Terra Madre. E di questo libro, in questo libro loro cominciano dicendo che la terra è una donna, una madre, una dea poderosa, e a lei che sono diretti la maggioranza dei sortilegi per curare l'anima. E anche questo è un insieme di poesie che ci hanno mandato già tradotte in italiano. È un'opera meravigliosa che segue un po' il discorso precolombiano dei loro testi scritti su carta a mano, ed è anche questa una lettura bellissima che abbiamo fatto tra donne e che ci ha portato a vivere un'esperienza di una come noi che sta girando poi il mondo con questi suoi con questi libri particolari di questa cooperativa che lei stessa ha creato, e anche lei ci parla di sempre del tessere. E per esempio leggo due righe: quando cominciò la terra, dicono che la luna salì su un albero, stava lì tessendo, stava lì filando, lì nell'albero. Voi dovete tessere, voi dovete filare. Gli insegnò da lì sopra, l'aurora la trovava lassù, lavorando. E questo, tanto per darti un'idea, insomma, sì, di questa... Quindi, se vogliamo, è un po', tra l'altro mi viene in mente, proprio adesso che parli della Dea Madre, sì, io ho letto un libro molto bello, La curandera, di Herman Mamani, che conoscerai, sì, sicuramente, sì. E ho anche seguito dei corsi con questo scrittore in Italia, e tra l'altro ci saranno anche nel 2009. Ho ricevuto, pensa, proprio oggi l'invito a partecipare a questi corsi. E vi ricordo che era stato un momento molto bello, anche molto emozionante, perché durante questi 4 giorni trascorsi insieme a quasi una sessantina di donne, sì, raccontando così le proprie storie, erano venute fuori, diciamo, così tasselli di vita molto, a volte anche tristi, molto particolari, a volte, sì, gioiosi, sì, ma anche molto, molto profondi. Sì, e questo, il suo corso in effetti era poi una sua volontà di dare consapevolezza alle donne che il ruolo della donna nella nostra vita sociale non è quello che ci è stato attribuito ultimamente, soprattutto quindi come consumo, come donna di piacere o come donna anche volgare, ma la donna in sé ha un valore e una, come dire, un peso ben diverso, che la società così tende un po' a sradicare, no? dalla nostra tradizione, forse anche per la paura che si ha, sì, di queste capacità che la donna ha e che le donne hanno in gruppo anche molto. Mm-hmm. Io almeno sento molto questo. Comunque, se ti interesserà approfondire il discorso di Amber Past, sì, è veramente bellissimo. Infatti ti ringrazio perché me lo sono già segnato. Ti manderò l'intervista che mi ha fatto, bellissima, che abbiamo poi pubblicato. E poi abbiamo fatto questo spettacolo tutto organizzato da noi donne, leggevamo parti dei loro scritti e intanto giravano queste immagini di come facevano le donne a fare il libro, che bello, e come salutano il libro quando lo spediscono, tipo benedizione, che diciamo, bello, che gira nel mondo. È una cosa meravigliosa, infatti, sì, è molto molto molto è molto bello. Io, guarda, non mi stanco di dirlo ogni volta che così veniamo in radio, ed è un momento molto duro per noi, perché al venerdì sera alle 8, dopo una settimana di stanchezza, dopo aver magari preparato preparato i testi, dopo aver lottato anche per arrivare fin qua, che non è proprio a due passi, ma è un momento di ricreazione, di gioia poi intensa che poi piano piano si consuma durante tutta la settimana successiva, perché la radio e la tela sonora è quello che stiamo portando avanti con Anna e con tutti i nostri amici poeti, scrittori. È veramente qualcosa che ha qualcosa di magico. E infatti dirlo a volte quasi è superfluo. Sì, invece no, invece va detto, perché per chi, anche chi ci ascolta, perché sappiano che quello che facciamo lo facciamo con amore, con passione, ma a volte costa molto e ci sono grandissime difficoltà, ma che cerchiamo sempre di così nasconderci anche a noi stessi per poter andare avanti. Però crediamo che ne valga la pena. E questo infatti è la prova che, messa così a confronto con persone anche come te, Vittoria, che ho sentito poche volte, perché anzi dovevi partecipare poi a una vecchia puntata, no? Per presentare Joyce Lussu, poi abbiamo scoperto che invece facevi parte della quarta pagina di Anna Maria Farà, quindi comunque ti abbiamo in qualche modo anzi dato ancora più spazio. E dicevo, è una scoperta, perché ogni volta, non ti nascondo, mi sorprendo di quanti sono gli scrittori, le scrittrici, i poeti che hanno dedicato la loro vita veramente alla poesia e magari non sono conosciuti o comunque non hanno l'opportunità di avere uno spazio adeguato in televisione o in radio, perché la poesia lo sappiamo, è difficile che un libro di poesia così venga pubblicato e poi abbia successo, perché è più facile magari per il romanzo essere un romanzo di successo. La poesia è una nicchia, è un qualcosa di sacro che forse, chissà, magari col successo perderebbe un po' questa magia, però è anche giusto, noi riteniamo doveroso nei vostri confronti di persone come te che hanno passato parecchio tempo, a dare spazio, a dare luce e quindi a dire che cos'è la poesia. E molto a mettere anche il rapporto tra di loro i poeti. Sì. Che secondo me anche questo è fondamentale, perché ci sono delle tipologie, come tu sai benissimo, di persone, mm-hmm. quindi le donne tipo Anna, che poi vabbè, Anna direi che è un caso unico, ma insomma, così il filone che segue Anna è seguito poi da altre persone che magari non la conoscono o lei non li conosce, quindi mm-hmm. metterci a relazione mm-hmm. porta poi a questi incontri tra persone che trovano delle sintonie fortissime e da qui nascono delle cose davvero molto belle, insomma, che poi sono cose così che sono regali, ecco, reciproci. Sì, quando parla della solitudine regale, no? Sì, di Penelope. Perché io ho visto... Ormai la sua memoria, Penelope, l'ho letta non so quante volte. Senti, poi ho visto tu non hai ancora parlato invece delle voci della luna, te ne stai zitta e non dici niente. Sì, dunque, le voci della luna, io stavo pensando oggi quanti anni fa è che, quando ho iniziato? Scritto le voci della luna, ma sono una ventina d'anni. Ah. E le voci della luna appunto avevano questo compito, perché voci intanto, mm-hmm. perché ogni voce era un'arte, quindi l'insieme delle arti mm-hmm. erano le voci della luna, poi la luna perché in un viaggio che facemmo, che fece insieme a mio marito tantissimi anni fa, in India vedemmo tutti questi uomini e donne, uomini lungo il mare che adoravano la luna piena e quindi questo fu il nome. E qui eravamo un gruppo per lo più di donne, anche molto numerose era diventato, in cui il discorso della poesia era naturalmente la voce più importante, però c'era anche il piccolo teatro, la musica, molta pittura, artigianato artistico, eccetera. Poi insieme ad altre, sempre del circolo, facemmo nascere la rivista Le Voci della Luna, che oggi è diventata una rivista veramente molto bella di poesia mm-hmm. e che allora nei primi 6-7 anni fu una rivista diciamo più semplice, con letture, poesie, racconti che avevano un aspetto fresco, erano anche cose molto belle, interessanti, piene di ricchezza spirituale. e non avevamo nessuna gerarchia tra di noi, lavoravamo molto bene, era un discorso così che poi non è potuto andare avanti proprio perché le cose crescendo molto e nel tempo danno poi luogo a prodotti che sono magari qualitativamente molto migliori, ma poi in pratica il rapporto umano perde la sua priorità. Non so se questo discorso è chiaro. No, è chiarissimo. Sì. Tra l'altro io fra le mani ho un numero, il numero 41 che avete dedicato a Paola Febraro. Ah, Paola, sì, ho fatto quell'editoriale che poi è uscito non firmato, quell'editoriale in cui ho raccolto le voci di tutte le sue amiche. Paola era una persona, tra l'altro, con lei era fortissimo il discorso della terra madre. E penso che Anna ne parlerà, vero, di Paola Febraro? Sì, credo proprio di sì, credo che nelle sue pagine. Sì, tra l'altro è bello quando tu dici, sì, sono della specie femminile che piange. Sì, io sono della specie femminile che piange. E sì, lei aveva questi suoi modi così, era una donna particolare, con un carattere non facile come molte di noi, ma aveva una sensibilità profondissima ed è una grande poeta, una poetessa grande veramente, e come poi dicevi tu prima, proprio forse anche per questo suo modo un po' schivo di porsi, non le era stato facile essere riconosciuta. Per quello che valeva, ecco, per cui adesso abbiamo tentato e continuiamo a fare questo in vari modi. Io, per esempio, ho mandato una mail a tutti quanti per farla girare con le poesie più belle, ricopiando le sue poesie più belle, per cercare appunto di farla conoscere. Adesso poi è uscito un libro di recente, postumo, lei lo stava preparando, mancava solo la copertina prima che... Okay. Che lei morisse. Molto, sì. Molto bello. Ma ne parlerà Anna di questo. Bene, sono veramente. Quindi non diciamo nulla allora a questo punto di Joyce Lussu, o vuoi comunque. Visto no, io di Joyce Lussu, guarda, così pensando quello che ti avrei detto, volevo dirtela come terza donna fondamentale. Quindi la prima era Anna, e poi c'era la Gimbutas, quarta donna, Amber Past e la Lussu. Della Lussu dico solo questo, perché anche di lei ne parlerete più avanti in modo... Sì, abbiamo invitato, come tu sai, quella... Federica, questa Federica. Giovane donna, bravissima, una studiosa della Lussu, veramente... che l'ha approfondita da tutti i punti di vista. La Lussu per me è proprio uno dei riferimenti fondamentali, perché come donna del Novecento lei è stata una grande disubbidiente da tutti i punti di vista, non la si è fatta conoscere appunto proprio perché non era incasellabile, non si riusciva a ricondurre a nessun prototipo, come dire, ecco. Lei non riusciva a essere messa da nessuna parte, lei diceva quello che pensava, scriveva quello che credeva giusto, quindi vabbè, lei è stata una brava poeta, ma fondamentalmente è stata una femminista, una partigiana, una storica, una studiosa delle Sibille, della Madre Terra, un antimilitarista, quindi è come se fossero tante vite interessantissime in una persona sola, e questo mi ha sempre sbalordito. Poi il suo grande amore per i bambini, ha passato un'infinità di anni nella vecchiaia ad andare nelle scuole a parlare della controstoria, come va letta la storia, non come dicono i libri, ma la storia dalla parte delle persone, non dalla parte di chi vinceva, insomma. Era veramente una persona particolarissima ed eccellente, una donna specialissima proprio. Uso parole poco proprie per definirla. Senti, poi ti volevo, c'è un piccolo rumorino, scusami, a volte sto lontana dal microfono. Tu hai anche fatto un'esperienza nell'agricoltura? Sì, è negli anni Ottanta, quando molti dalle città scappavano, anche mio marito e io siamo scappati e ci siamo licenziati da un ente in cui lavoravamo, un ente di ricerca, e siamo venuti a vivere appunto in campagna qua, e abbiamo avuto un allevamento di capra insieme a tanti altri. È stato un lavoro fatto in gruppo e per me è stato molto importante, ha influito molto sulla mia formazione, proprio perché venendo io dalla città, da una famiglia diciamo medio borghese, di professori, eccetera. Vedevo la vita così come un po' sotto una campana di vetro, e invece sono entrata direttamente in contatto con i problemi della vita, con la natura, con gli animali, e abbiamo vissuto molto molto intensamente questi anni con i nostri bambini, con il contatto con la vita e con la morte, con i valori di cui si parlava ma che non erano mai stati vissuti in prima persona, mm-hmm. È stato veramente molto importante. Poi mi piaceva moltissimo il fatto che la vita e il lavoro erano un tutt'uno, e lavoravamo insieme, ci aiutavamo tra di noi, insomma era un discorso molto molto bello, ma difficilissimo, perché appunto negli anni 80 non è che non c'era posto per lo sviluppo di una società così, noi eravamo degli illusi, insomma era andata benissimo così, ma insomma la società che sognavamo era proprio in aperta contraddizione con tutto il resto, con come andavano le cose, insomma. Dentro di me però ha lasciato un segno profondissimo e mi ha dato una forza che certo prima io non avevo, una consapevolezza, sì, mi ha insegnato a non aver paura della vita e della morte più di tutto. Questo è un tema che effettivamente per chi vive in città la morte fa paura, no? Perché effettivamente non siamo più abituati a vedere nulla, cioè la vita che facciamo è una vita fatta di regole, di metro, di bus, di lavoro, di vestiti, di oggetti, di case, deve essere tutto bello, perfetto, pulito, in ordine. No, traffico, rumori, e poi però sì. Ci scordiamo, sì, per esempio, un po'. Il silenzio non si sa cosa sia, ecco. E invece il silenzio nella natura, gli animali, questo essere abituati che quando uno ha bisogno comunque c'è un altro, è una cosa che è praticamente ignota. Da allora questo mio bisogno, proprio bisogno di lavorare in gruppo, qualunque cosa che si porti avanti si fa in gruppo. Adesso per esempio con questo gruppo Gimbutas, Maria Gimbutas, che abbiamo creato da più o meno un anno, facciamo delle letture insieme, poi facciamo dei piccoli come spettacoli teatrali, di piccolo teatro lo chiamo io perché non siamo attrici, attori, ma per esempio abbiamo fatto questo di Ambar Past assieme, poi abbiamo fatto una giornata sulla violenza contro le donne, e poi il 27 gennaio racconteremo il libro della Berger, Raccontami un altro mattino, e facciamo delle cose piccole, semplici, però sempre in gruppo, quindi andiamo avanti, facciamo dei piccoli passi, creiamo queste cose insieme. Io l'ho imparato così, l'ho imparato nella stalla, insomma, che quando c'era bisogno eravamo in gruppo, quando succedeva qualcosa ci chiamavamo l'un l'altro, insomma vivere un po' in tribù secondo me sarebbe il modo giusto per l'uomo. Migliore che poi quello che facevano anche le donne come la curandera, certo. Che erano, non esisteva poi anche il matrimonio in sé, era visto come un aiutarsi un con l'altro, quindi certo. C'era una promiscuità, ma non in senso malizioso, ma proprio certo, come di aiuto. Anche noi eravamo in tanti, ma ciascuno aveva i suoi rapporti, certo. Insomma, intimi come altre coppie normali, tra virgolette. Senti, io invece adesso ti volevo leggere la poesia di un amico che non ama tanto mostrarsi in pubblico anche lui. Te la voglio leggere, poi magari se gentilmente, se ti fa piacere, se mi dici cosa provi. L'amore è la solitudine più estrema. Al contrario, l'odio è un sentimento diffuso, praticabile, esternabile e accettato. L'odio è reale, l'amore è irreale. L'odio è serio, l'amore è ridicolo. L'odio cambia la realtà. L'amore è noioso, difficile, impossibile. L'odio è pubblico, l'amore è privato. L'odio muove, produce, organizza e dà vigore. L'amore ferma, rallenta, fa diventare timidi. Porta a pensare le cose. L'odio stringe lo spazio, contrae il tempo. L'amore porta a dilatare il tempo, ad allargare lo spazio. L'odio ha la storia alle sue spalle, constata che la vita è brutta e il tempo senza senso. L'amore accende la vita, riconosce la bellezza, vuole costruire un mondo diverso da quello che esiste. Beh, lui l'ha scritta immaginando, immagino anche un po' i fatti di questi ultimi giorni, queste ultime settimane che hanno un po' sconvolto tutti quanti, senza entrare in dettaglio perché non è il momento, però per ricordare anche che cos'è l'amore, che cos'è l'odio effettivamente. E niente, tu nei tuoi scritti, nel parlarci di queste donne, hai parlato effettivamente dell'amore e di come una civiltà basata sul buon senso poi delle donne potrebbe essere una civiltà dove l'odio non esiste, quindi la guerra non esiste. Certo. E beh, mi ha fatto pensare, perché è anche un po' quello che dice la curandera, quello che dicono anche tante persone che ultimamente frequento, e ci si chiede come mai invece si costruisca poi sull'odio, perché l'odio poi porta avanti anche le guerre, porta avanti anche a volte l'economia, no? Mentre l'amore è gratis, è gratuito. Certo. E quando si ama veramente si ama per niente. Certo. Ma questo utilizzo dell'odio per ottenere delle cose, cioè l'odio viene proprio utilizzato, è un mezzo per ottenere delle cose che si vogliono, che grande parte della società vuole, non so come dire. Sì, insomma, sì, no. È vero che sembra che tutto quanto giri intorno all'odio, sì, anziché attorno all'amore. E invece anche queste società di cui parlano, che così noi un po' idealizziamo, ma certamente sono esistite e potrebbero benissimo esistere, è chiaro che che prevedono anche dei contrasti, ma i contrasti si risolvono appunto attraverso, ci sono ancora i luoghi, penso alla Sardegna, i luoghi con tutte queste grandi pietre, che erano i luoghi in cui si sedevano a decidere le controversie tra le persone, che cos'era giusto, che non era giusto, sarebbe teoricamente il nostro giudice di pace. Mm-hmm. Cioè tutti quanti potremmo, quando abbiamo dei problemi tra di noi, così rivolgersi agli anziani di una volta, ci dovrebbe essere qualcuno che ci aiuta a metterci in pace, e invece nei posti di lavoro ci sono delle tecniche che portano proprio a ricercare la contrapposizione, perché attraverso quella si ottiene di più. Infatti. Quindi noi abbiamo una società che veramente parte da principi aberranti, e d'altra parte lo si vede perché queste guerre, queste finte Infatti. Guerre sì. che hanno poi tutte motivazioni veramente diversissime rispetto a quello che si dice, che portano per esempio in una popolazione delle due diverse etnie all'interno della stessa popolazione ad uccidersi tra di loro, perché qualcuno deve andare lì a prendere delle cose, quindi è Infatti. Vero, è terribile, ma è così. Terribile. Eppure per esempio questo libro che noi stiamo preparando di Zdena Berger, che era una di Praga, un'ebrea che è ancora viva, che è stata internata a 14 anni, eccetera. Da questo si vede come anche nei momenti più terribili l'amore comunque riesce a farsi spazio e anche aiutare a risolvere le cose. Ma quando il mondo è schiacciato da questi poteri così forti, per cui tutti noi ci sentiamo poi schiacciati, quasi sì. annientati, sembra che non ci sia più una strada possibile, insomma. Ebbene, invece chissà che non sia invece proprio la poesia. Sì, il modo veramente non bisogna fermarsi assolutamente, no. Anche se questi sono momenti veramente tremendi. Io ho visto gli auguri di Natale, che di solito mi arrivano decine di mail con i pupazzetti, i disegni, le foto. Quest'anno uno aveva questo aspetto, se no sono arrivate lettere e mail di tutt'altro genere, certo. In cui ci si trasmettevano dei messaggi, delle cose che arrivavano da di qua, da di là. Sì, c'è questa atmosfera consapevole, cupissima, perché parrebbe che l'odio vincesse, invece assolutamente no, non deve proprio. E sembra un'utopia, ma bisogna veramente lottare disperatamente perché questo non succeda. Beh, diciamo che ci sono tante persone che non fanno pubblicità di sé e che non sono pubblicate, ma che ci credono ancora, e quindi la tela sonora è uno spazio dedicato a queste persone È un soprattutto. magnifico E spazio. quindi ti ringraziamo, cara Vittoria, perché tu non ci crederai, ma è quasi un'ora che noi stiamo parlando. Dici davvero? Eh sì, perché mancano 5 minuti alla chiusura della trasmissione, quindi il tempo è volato. E quindi niente, ti ringraziamo. Ringraziamo Anna, che è la nostra musa, la nostra La musa nostra musa, sì. ispiratrice, e Anch'io la la ringrazio donna, la molto. nostra. Ringrazio te e chi ti Va bene. ascolta. Senti, invece, ricordando le scrittrici di cui hai parlato, non dimenticarti che se hai delle cose belle, dei pezzi anche che ritieni così importante che anche altre donne leggano, qui a Bruxelles io conosco tantissime donne, tantissime amiche che io chiamo, non chiamo sorelle, chiamo streghe, perché Ah, sono benissimo. delle streghe buone, che Sì. hanno tanta energia e che Sì. credono in questa forza della donna, che sarebbero contentissime di poterlo leggere. Quindi io Ah, provvedo sempre certamente. Io a comincerò mandandoti Amber Pass. Benissimo, io poi pubblico tutto sul blog della tela Perfetto. sonora, quindi tutti hanno accesso e possono commentare, quindi Benissimo. sarai, come dire, diciamo che sei pubblicata sulla tela sonora. Grazie. Senti, Grazie, un Daniela. grande Un bacio, io abbraccio. invece ti mando gli auguri migliori per questo anno, che so che sarà ricchissimo per te, perché le donne che hanno valore come te, anche se hanno la vita magari più difficile, hanno anche una vita qui diciamo comblé, più piena, più che Molto piena. degna di essere chiamata vita, con la V Grazie. maiuscola. Un grande abbraccio e tanti auguri. Ciao. Un abbraccio a te, auguri anche a te e a tutti. Ciao, ciao, Ciao. ciao, a presto. E benissimo, cari amici, oggi vi diciamo che siamo stati fortunatissimi ad avere con noi Vittoria. Ne dobbiamo sempre ringraziare Anna e ringraziare soprattutto Radio Alma, che ci dà questo spazio al venerdì, quasi in conclusione, se vogliamo, della settimana lavorativa. E chissà quanti di voi riescono ad ascoltarci e anche a sintonizzarsi su 101.9. Radio Alma, come voi sapete, da qualche mese è in piena espansione, ci sono lavori in continuazione, infatti ogni tanto sentite anche magari dei colpi, dei rumori un po' strani, ma la nostra sede è in continua così in fermento, ci sono dei cambiamenti perenni, quindi a volte anche noi abbiamo difficoltà a capire dove ci troviamo. E tra breve speriamo di poter prolungare la tela sonora anche al sabato, con magari un'impronta leggermente diversa per dare spazio un po' a tutti. E noi abbiamo parecchi poeti che fanno anche performance, non solo poetica, ma slam poetico e unito a musica. Quindi volevamo dare spazio anche a loro. Troveremo presto il sistema. Che dirvi altro che niente, che come al solito ringraziamo tutti coloro che sono puntuali nel nostro ascolto. La puntata verrà caricata appena possibile sul podcast per dare a tutti l'opportunità di riascoltarla. Diamo un po' di musica, così chiudiamo in bellezza la serata. Vi abbraccio e ci risentiamo e ci riascoltiamo venerdì prossimo. Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs. À l'époque, ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon. Avant qu'on les enferme dans des micro-sillons, ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie, quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait,